Mi pare che oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti. Ancora, idolo mio, sono vani pianti. Di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni. Mancava questo intoppo. Amico, a tempo vi ritroviam. Avete cuore, avete anima generosa. Sta a vedere che il diavolo l'ha detto qualche cosa. E domanda, perché? Bisogna abbiamo della vostra amicizia. Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni, il sangue spenderò per servirvi. Ma voi, bella donnanna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma turbare del viver vostro? Oh,